la lezione. E sono chiacchiere distintivo, sono chiacchiere. Due 51 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rosso 87.9 della banda romana e laziale, ci siamo. Radio Onda Rossa, l'unica radio che prima di trasmettere ti devi aggiustare il microfono, devi stringere le fascette con il cacciavite per poter mettere la sputacchiera, per poter trasmettere, insomma, siamo conciati così. Poi magari ti sfugge il cacciavite dalla mano, ti fai male, insomma, non potete. Avere questo peso sulla coscienza, cioè di chi conduce la Radio Onda Rossa che si fa male. Perché non avete ancora... Magari vi esce il sangue. Perché non avete ancora contribuito attraverso il sito della radio alla campagna 30 per 1000. €30 all'anno, 2,5 euro al mese. Per continuare ad ascoltare questa radio. Per far sì che sia la fonte di comunicazione fra i compagni e le compagne. Anche per ricomprare queste due fascette da mettere sul microfono. Ma bando a queste cose, le fascette le lasciamo così, invece la radio deve continuare a trasmettere anche. Se dobbiamo fare questa operazione lo continueremo a fare, ma insomma i €30 della campagna di sottoscrizione della tessera di Radio Onda Rossa, ci sono le tessere qua in radio, quindi è bene che passiate direttamente a dare il vostro contributo di €30 all'anno, avrete la tessera di Radio Onda Rossa disegnata da R. Push, una roba da far vedere agli amici e alle amiche, andarne fieri, così vi svolta una serata. Guarda che ho preso la tessera di Onda Rossa. Per sapere di più, per sapere perché la radio ha promosso questa campagna, questo crowdfunding, basta andare su www.ondarossa.info cliccando in altro, cioè appunto la tessera di R. Push, e cliccandoci dentro si apre una pagina, ci stanno due paginette in cui viene spiegato, vengono anche presentati i conti della radio in massima trasparenza, a cosa servono questi soldi, con un dettaglio delle uscite annue della radio. Altro modo per contribuire a Radio Onda Rossa è quella, ci stanno ben due iniziative. Venerdì 12 aprile, un tango per Radio Onda Rossa. Tango tradizionale musicalizza. Angheria Popular, venerdì 12 aprile dalle ore 22. Sarà in funzione bar e enoteca, disponibili autentiche empanadas. Ingresso a sostegno di Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza. Per raggiungerci, centro sociale occupato la strada, via Passino 24. Non ve l'avevo detto, infatti, un tango per Radio Onda Rossa ci sarà al centro sociale occupata di gestire la strada via Passino 24 a Roma, metro B Garbatella, autobus 673, 716, 715 e 670. E ringraziamo i compagni e le compagne della strada all'ascolto di Radio Onda Rossa, a sostegno di Radio Onda Rossa. Non è finito, perché invece sabato 13 aprile alle ore 20 100 celle aperte via delle Risate 5 a sostegno di Radio Onda Rossa. I Shine Ladies Reggae Band 20, c'è la sottoscrizione, è a seguire DJ set a cura di Radio Onda Rossa. Partecipa, sottoscrive, sostieni. Spazio sociale, 100 celle aperte, via delle Risate 5. Se sta tutto 80401, il numero corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Vosci 56, 00185, Roma San Lollo, 06491750. Si comincia! We'll be right back. 23:02 minuti primi, ovviamente dalla California, dal Newport Sugar Ray. Continuiamo quindi questa sera quanto avevamo iniziato la scorsa settimana, cioè il lento inserimento nei dischi, nei concerti, dell'ausilio di uno strumento nuovo che non faceva delle parte delle band classiche. Un'emissione che viene da un altro pezzo della musica, cioè quella che fanno coloro che la musica la diffondono, la fanno conoscere, la manipolano, ci giocano, la trasmettono nelle radio oppure direttamente proprio nei DJ set live, nei posti dove si balla, insomma il DJ. O come ripetiamo spesso, ci piaceva un tempo dire a noi da queste parti, quelli che vengono a mettere la musica. Il gioco è semplice, dal crossover che univa il punk, il metal, all'hip hop, agli MC che cantavano, che rappavano sopra appunto delle basi invece live. Quindi così ci viene in mente Rage Against the Machine, ma forse anche prima Beastie Boys. Ecco, loro non avevano il DJ, però stavano lì, affini, vicini. E perciò poi il gioco è fatto, nasce e si sviluppa il crossover, il nu metal. È quasi obbligatorio che dentro una band di quegli anni, degli anni 90, faccia il suo ingresso un DJ. Questo è il caso appunto di Sugar Ray, Sugar Ray, che avevano come DJ Lethal, che non compare in realtà in questo primo loro lavoro, secondo, non ricordiamo esattamente, del 1995. No, no, il primo lavoro del 1995, che si chiamava Lemonade and Brownies, in cui DJ Lethal è presente, ma non è presente in copertina come un membro del gruppo. È presente nella registrazione, è presente nei concerti, però appunto ancora quasi non c'ha questa dignità, mentre va sotto di noi una traccia successiva un po' funky, un po' bordo piscina. Eppure questo è un tormentone che vi accompagnerà nelle prossime puntate. Vi spiegheremo semmai più avanti perché. Ancora crossover dall'altra parte del confine del Messico, loro si chiamavano Molotov. Caminar mi hermanito, porque anoche se puso hasta el pito. Ayuda a este pobre crudito a que se coma su desayunito. Inviértale al rock and roll, es patrimonio de nuestra nación. Queremos llegar a 1,000,000, así que aflojen ese quiñón. Deduzcan sus donaciones para alargarnos de vacaciones. Ayuda a nuestras mansiones pa' que les cambiemos los sillones. Apoyen a mi sobrinita que ya tuvo varias operaciones. Va a necesitar cirugía, hay que agrandarle los chicharrones. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad. es agricultura. Apoya tu banda local, desde la cuna hasta la sepultura. Ayuda a los ponquetones a que se compren sus resistrones, o manden latitas de tiner, porque la bolsa es para los alcoholes. Pa' mí que ese teletón es de puro chocolatón. Ayuda de corazón es ayudar a nuestro ponquetón. Hay que llenar la pancita del cochinito del ponquetón. Más no confundir la alcancía con el marrano de Mondragón. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. Dime tú, ¿qué vas a hacer? Te vale madres. Con los niños de la calle. Que se mueran. Si en la calle hay tantos baches. A mí, que ya no se puede dormir. No me da mi Navidad. No me da mi Navidad. No me da mi Navidad. Così, proprio da disco. Ed è un piacere vedere Molotov, di cui uno dei componenti indossa una bella felpa del St. Pauli. La squadra di calcio del quartiere St. Pauli di Amburgo. Ahora es picada ed è pura bajada. Quien piensa que no. L'unica squadra di calcio per cui varrebbe la vera la pena di fare veramente. Tenía una cama. Una delle pochissime. La tappa de caja estaba usando a mi perro de almohada y topé unas tortillas. Si no queda perro nada. No comeremos mañana ni hoy, honey. Nos comeremos el que se lo tomen. E quindi lasciamo le potenze da Città del Messico di Molotov. Ancora crossover, ancora nu metal, stiamo parlando adesso invece. Las proteínas de una caguama logré levantar. Di Incubus, il loro lavoro science, anche loro con Estoy de rebote gracias a un cerdo con su macana. Un DJ presente fisso nella formazione. Ancora anni 90, fine anni 90. Comida ni chamba, bendita tu mi alma che non vale nada. Quisiera. E nel caso di Incubus, spesso e volentieri al DJ viene lasciato la possibilità di esprimersi su una traccia intera. È il caso di questa sesta traccia da Science, scritto però con i puntini, quindi si dovrebbe pronunciare come un acronimo, ma siccome noi abbiamo una puntata molto corta, ma non perché vogliamo o abbiamo poca musica da mandare, ma perché domattina ci dobbiamo alzare prestissimo, quindi praticamente a dormire non ci andremo proprio. Andiamo tutti veloci, parliamo velocissimi, facciamo tutti in fretta. 0649 1750, non ve l'avevamo ricordato, è il numero di Radio Onda Rossa, tenetela a mente, illuminate di rosso la redazione della radio più rossa che c'è, fate sentire che ci siete. Incubus, Magic Medicine, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. On this page you see a little girl giggling at a hippopotamus. I wonder why. Thank you. will punch a baby bear in his shit. Give me lip, I'ma send you to the yard. Get a stick, make a switch. I can end the conversation real quick. I am crack, I ain't lying. Kick a lion in his crack. I'm the shit, I will fall off in your crib. Take a shit, hit your mama on the booty. Kick your dog, fuck your bitch. Fat boy dressed up like you sat on and took pictures with your kids. We the best, we will cut a frowny face in your chest. Little wench, I'ma mention up be fresh. I'm a bitch, yeah correct. I will walk into a court while it wrecks. Screaming yes, I am guilty motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Who flame throw your fuck shit to Funyuns? Flame your crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the flame fuckers, your fame and fate's done with. I love Charlie Brown, Peppermint, Patty, Linus, and Lucy. Put coke in the doobie, roll woolies to smoke with Snoopy. I still remain that dick rabbit slacker to spit a wookie. Cause the total of the Thule will murder you friggin' moolies. Fuck outta here. Top billing it, valiant without villain it. Viciously found victory. Burnt towns and villages, burning, looting and pillaging. Murderers try to hurt us, we curse them and all their children. I just want the bread and bologna bundles to tuck away. I don't work for free, I am barely giving a fuck away. So tell begging Johnny and mommy to get the fuck away. Yo, here's a gun, son, now run, get it the gut away. Live to shoot another day. E 27 minuti primi, Radio Onda Rossa, 25 o'clock, 87.9 della modulazione di frequenza. E abbiamo fatto una capatina, come si dice qua da queste parti, o forse come si diceva, ma che ne sanno i pischelli che vuol dire una capatina? Un viaggetto, insomma, una visitina. In territorio europeo, e quindi siamo andati prima in Germania, dove ci sta un grandissimo, dove abbiamo ascoltato un grandissimo disco, uno di quelli così che ti spezzano quando li senti, insomma ti rimangono dentro, una precisione, un'esattezza di composizione senza sfumature, senza sbavature. Stiamo parlando di Flu Point ID dalla Germania, dicevamo, parte di questo lavoro di Matt Core, come si usa dire in questi tempi. Anno 2008, parte di questo lavoro era comunque lasciato anche in questo caso alle manipolazioni di un DJ, di un manipolatore. In questo caso abbiamo ascoltato l'ottava traccia, che si chiamava Zuegli, da questo lavoro, primo lavoro per Flu Point ID. E poi invece, tornando qualche anno indietro, nel 2004 siamo andati in Olanda ascoltando gli Error Are you ready? È la loro ultima traccia da questo EP, la quinta traccia, che si chiamava Brains Out. E poi non poteva mancare DJ Shadow, dicevamo forse di tutta questa storia dei DJ che comunque cominciano a comporre, cominciano a fabbricare dei veri e propri dischi da ascolto, in opposizione ai concept di invece memoria e attitudine rocchettara o cantautorale, insomma, o progressive, ancora meglio. In alternativa a dischi invece fatti con sonorità estremamente varie, quindi nello stile di chi mette musica, di chi si preoccupa di mettere musica composta da altri. In questo caso DJ Shadow proprio è l'anello di congiunzione fra le due modalità. Questa volta un lavoro recente che dovrebbe essere del 2017, se non andiamo errati, questo lavoro di DJ Shadow, da cui abbiamo ascoltato la seconda traccia che si chiama Nobody Speak. E ora dalla California, da San Francisco, ci ricollochiamo nuovamente a Bristol, patria, il trip hop. Anche qui disciplina e genere di frontiera di contaminazione. Forse quella che è la band più rappresentativa. Massive Attack. Anno 2003 per loro. Questo non sono capace a dirlo. 100th. Non mi esce con lo sputacchio. Sarebbe centesimo Windows. Centesima finestra. 100 window. Per Prodigy il lavoro, da cui andiamo ad ascoltare la quinta traccia che si chiama Butterfly Co. Naked eye, early sunrise. the showdown. This is the showdown. You're moving too fast, you need to slow down. Keep running your mouth and you'll get mowed down. Here we go now. We'd like to welcome you all to the showdown. Gift to spit, and damn, I'm gon' flaunt it. You can meet me at high noon if any of y'all want it. I tried to forget my past, but my mind is still haunted. Yeah, from the days when I was teased and taunted by these fake rap singers. This ain't the Wild West, you ain't real rhyme slingers. You know who the best, I'm ready to bang. Always known for doing my thing. I'm nice with the rhyme shooter, got incredible aim. I ride the iron horse, some call it the train. I don't put no saddle on it, I ain't feeling no pain. I'm wanted in 50 states like I was Jesse James. I'm a high plains drifter that's roaming the plains. And everywhere that I roam, I only live by one motto. That's a fistful of dollars for the black desperado. I told y'all fools, yo, we was born to ride again. This is Big Indiana and Denmark Slim. Come on! This is the showdown. Too fast, you need to slow down. Keep running your mouth and you'll get mowed down. Here we go now. We'd like to welcome y'all to the showdown. This is the showdown. You're moving too fast, you need to slow down. Keep running your mouth and you'll get mowed down. Here we go now. We'd like to welcome y'all to the showdown. Now I'm about to get wild, boy. Peep my style, boy. I roll through the hood like the urban cowboy. The little kids love me, I'm a hero in the hood. For the way I take the bad and I change it into good. I roll with battle cats and real rhyme writers. Me and my posse is coming, we the real spit fighters. So please take a seat, or you're feeling my heat. We can throw down in the street like I'm leaving Cleve. We ain't gon' do it with the guns, just the mic and the beats. I'll leave you permanently sleeping 6 feet deep. This ain't the supernatural, I'm just speaking as Reek. I lassoed the track, y'all, now I'm riding the beat. And once the beat is broke, we gon' let the rhyme smoke. Move fast up on the track, there's no time for slow folks. That's 16 bars, now we came to the end. Mr. Piano Man, please play that shit once again. Come on! This is the showdown. You're moving too fast, you need to slow down. Keep running your mouth and you'll get mowed down. Here we go now. We'd like to welcome y'all to the showdown. This is the showdown. You're moving too fast, you need to slow down. Keep running your mouth and you'll get mowed down. Here we go now. We'd like to welcome y'all to the showdown. Need to slow down, young man, and use that mind as a weapon. Me and noise roll through your town like the Magnificent Seven. Someone call the Undertaker, notify the Reverend. Cause there's gonna be a rhyme fight tonight at 7. Somebody gotta go down, somebody gotta get clowned. There's not enough room for the both of us inside of this town. I hold the mic in my right, but switch to a southpaw. And now I'm marked and labeled and I live like an outlaw. But I'ma keep hope alive and never get caught inside of my mental when most of my show. I'm never gonna stop being the MC that I am. Cause going toe to toe is what made me a man. And now I really understand what a showdown means. To survive inside this game, you got to have strong team. And if you think that it's over, it's really not done yet. This is the part where we ride off in the sunset. This is the showdown. Fast, you need to slow down. Keep running your mouth and you'll get mowed down. Here we go now. We'd like to welcome you all to the showdown. This is the showdown. You're moving too fast, you need to slow down. Keep running your mouth and you'll get mowed down. Here we go now. We'd like to welcome you all to the showdown. Yeah. like a round ball spalling, spinning out the rims, no baskets falling. Just another basket case stricken with the lonelies. In walked the man, out flew the tenderoni. Wouldn't leave the children, left a little alimony. Nothing in my cup is just stale macaroni. Me needs some sustenance, find me a bottle. Writing to my paper as I stripped you a model. I hope you're happy. You know I am, baby. Can't be happier than me. You know it's true. I hope you're happy. I'm happy now, daddy, cause you got to be. Oh, and I'm your bad guy. Why? Cause I gave you everything. Crib, cars, cash, average. Sorry, that just isn't my thing. I had you living like a queen, well established. To the point, you wouldn't stop to think that if you step out on your boy, you probably wouldn't say being a groupie for black kids. I know it come with benefits. I lifted you from your knees to show you what exquisite is. Fans change ain't no robbery, so why you was in your bed with your girlfriend was slobbing me. It's probably in the script for us to take a dive. Quarantasei minuti primi, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. She just keep telling me things. Indaffarati, sì, indaffarati. I dischi vanno da soli. Things, things I don't wanna hear. She just keep telling me things, things I don't wanna hear. E ancora quindi la prima decade degli anni 2000-2005, Supernatural. S.P.I.T. Spit Spirituali Spiritual Poetry Ignite Stout. Disco Soul Hip Hop edito da Guerrilla Union. Da qui abbiamo ascoltato la settima traccia di Showdown. E poi a seguire sotto ancora la nostra voce questo lavoro. I Black Keys incontrano una serie di artisti neri che accompagnano nel loro rappare con suoni che assomigliano, che si assomigliavano molto al suono della Motown, a nostro avviso. Un bel esperimento che si chiamava Black Rock, che univa appunto le parole nero e rock. E li univa tanto da togliere un po' di lettere, tanto che Black Rock. Black scritto con il solo K e rock scritto con la solo C. Da qui abbiamo ascoltato Hope You Are Happy. E qui ci vorrebbe la lente di ingrandimento perché non vediamo più una mazza. Comunque Q-Dip, Billy Dance e Nicole Vray con Black Case che producono i suoni. Un lavoro ancora più vecchio, una compila proprio di DJ, si chiamava Terra Nova, un lavoro eccellente. Sentite che suoni, ve li propongo ora. I'm gonna go. quindi un collettivo di DJs che preparava una vera e propria playlist di grande spessore anni 90. Non riusciamo a trovare l'anno di pubblicazione di questo lavoro così in maniera semplice. A memoria potrebbe essere il 97, il 98, il 99, il 96, insomma quel periodo là. Da qui abbiamo ascoltato Patrick Pulsinger, City Light, City Strains, City of Strains. E veniamo a un'altra compilazione, invece questa che va a celebrare i 5 anni di un'etichetta indipendente, un disco arrivato non so come in radio, lasciato abbandonato per molto tempo, qui ha finalmente trovato custodia, diciamo, se non proprio un padrone. Chi lo volesse, chi volesse questo disco indietro, basta che ce lo dice. Noi per ora, dato la validità del lavoro, lo stiamo mandando. 5 anni di Hyperdub, 2005-2009, quindi secondo lavoro. Andiamo ad ascoltare la quarta e la quinta traccia, The Book Fat Warrior Queen, Money Honey Remix, sì, soldi e miele. O come dicevano dei nostri compagni amici, i soldi e l'ignoranza fanno la feccia dell'umanità. Elvula, invece la quinta traccia, Errol Bellot, Club Trotting, quindi 5 Years of Hyperdub, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Every time they kiss me, they got an attention. Sure. One, yeah. Every morning, exactly 4:30. The kick up, stand up, and don't stop, slap me. We up, call till around 5:30. I forget the ride if I reach work early. All of me work hard, me just can't fuck, you know. In take this thing for a joke, you know. One wall of fresh, me reach the bad first. It's sliding behind me and say, drop me soap, you know. Just go on, yeah. Galang, yeah. Sure, go on, man. Sure, go on, man. Go shop. Work hard, work hard, hard, hard, hard. This is your life. Work hard, work hard, hard, hard, hard. This is your sound, yeah, ever living, ever sure, Rastafari, Emperor Haile Selassie I the first, see, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah, yeah, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah, everyone loves the vibes that we bring, and everybody loves their music, I sing. We blow chatting and we rose rocking. Freaking sound international. You should know it all partial. Freaking sound international. Cause we have free credentials. Mr. Chin loves the way that I sing. And him loves to fight your music I bring. Mr. Chung want to buy Fimi song. Who's music playing from dusk to dawn. We go trotting and we rule swacking. King sound gone international. And you should know we don't partial. Free king sound international. Cause we have free credentials. Mr. Brown knows what's going down. Roots music playing uptown. Mr. Smith loves all the hits. Smith's DJ Roots music. We go chatting and we roots rocking. Freaking sound gone international. Yeah. Freaking sound. Sound international, cause we have free credentials. Freaking sound international. Hey, we no partial. Hey, hey, hey. This is a special, special. Yeah, they are from Errol Bellat. Yes, oh, yeah. Everyone loves the vibes that we bring. And everybody loves your music, I sing. We blow chatting and we rule tracking. Freaking sound. per Radio Onda Rossa, venerdì 12 aprile, Tangheria Popular, centro sociale occupato autogestito alla strada, un tango per Radio Onda Rossa. Mr. Chin loves the way that I sing and him loves the fast music. Dai dai dai, la città si mobilita per la radio. Non mancate a Garbatella. Ah! ancora qui un producer. Our celebrity youth and youth. Oh yes, oh yes. Richard Dorfmeister. E Different Drum Selection, questo lavoro. Anno 2000 per questo lavoro di composizioni dub, questo mixtape da cui abbiamo ascoltato G Corp. Peace time. Sì, sì. E anche per dire che finalmente li avete ascoltate anche qui in radio presentare il loro progetto A Disaccordo il sabato pomeriggio qualche tempo fa. Aishen, Lady Shrag Band, una formazione tutta femminile di reg. Perché anche il reggae evolve da quella che è la sua generazione giamaicana, ricca di vibrazioni positive, ma anche di qualche neo di una tradizione che abbiamo tante volte raccontato per questa radio, un poco machista e un poco omofoba. On a better, watch what you put in a Rizella, put in a sense of mania. Watch what you put in a Rizella, don't bother put in a nothing. E salutiamo Alessandro al solito. Put in a. Della marcia indietro, dicevamo Ashin. Put in a sense of mania. Ladies Reg Band. Stasera non esce l'inglese. O quel che ci assomiglia un po', perdonateci. Il tutto dove? A 100 celle aperte a sostegno di Radio Ondario Sound, ovviamente via delle Resede 5. Dalle 20 cena sottoscrizione a seguire DJ Set a cura di Radio Onda Rossa. Partecipa, sostieni. Sottoscrivi per Radio Onda Rossa per rilanciare la campagna di radio abbonamento 30x1000. Non potevano mancare delle vibrazioni tutte al femminile. Aishin, Ladies Reg Band. Dai. Trot on the street and what me see is just mud up. The brown and the crack. Oh gosh, no man on the cup. Say jump up and down, hold up your hand if you go prop up. Cause them kind of thing they said it must not be fixed up. Pass me the weed when you see come at the scene. Bordo piscina? Tredici minuti dopo la mezzanotte, Love Box. Questo è il lavoro di Groove Armada. Raffinato. Thank you. But I feel good. But I feel good. But I feel high. But I feel good. Groove Armada. Him on the beat. No cheese on toast, cheese shit. On toast shit. Come with that real dope, real shit. Dope shit. Yo, yo. Check. That mainstream, it just ain't me. If money was the motive, yo, I'd be loaded. And no, I'm not saying that just cause I'm broke. Know this, there's no need for a Rolex. Sure, it shows exactly the same time that your phone says. Gold has many properties, one it's so dense. But it's obvious to wear it as a chain. It's so dense and makes no sense. When you think of the obtaining process in history, is injury to the liberty. And straight up insulting, being vain is outrageously insane and revolting. Something for the fake who are fronting and lost focus, thanks to the free folks that own up nearly the whole of the industry, pumping it with gimmicks and silly scenes that leads to mimicry. Just isn't me. My visionary's pretty deep. Think when I speak, link the rhythm and the literacy. Cause this is hip hop, not shit pop. I won't even pit stop in that lane. Now you must be crazy. Put your middle fingers up to that cheap yucky stuff and just scream, yo, your scene just ain't me. Cause this is hip hop, not shit pop. I won't even pit stop in that lane. Now you must be crazy. Put your middle fingers up to that cheap yucky stuff and just scream, yo, I'll piss on the mainstream. You won't catch me caked up in makeup. I'd rather paint walls, not my face, love. Don't decorate my nails, cause they break when I'm skating. Grateful anyway, cause they came when I'm baiting. That's a bit bait, but no shame when I say this is blatant. That I never came as a slag or an ad for some crap. Poor gassed in a man, a gangster. Blap, blap, I'm a bad gal with mad swag. Nah, that's a slash at my character and ignorant. Low, don't act like it isn't. Peeps chat about themselves and their homies as niggas like they know no difference. A government takeover is controlling our vision. Our vibrations are low, so we're easily influenced and can't see the hidden truth. Well, I'm on a mission to raise a level up. A-grade clever stuff, shaming the devil. Cause this is hip-hop, not shit-pop. I won't even pit stop in that lane. Now you must be crazy. Put your middle fingers up to that cheap yucky stuff and just scream, yo, your scene just ain't me. Cause this is hip-hop, not shit-pop. I won't even pit stop in that lane. Now you must be crazy. Put your middle fingers up to that cheap yucky stuff and just scream, yo, I piss on the mainstream. What? Change my image, get a stylist? I'll change your image with my right fist. Leave you with the vision of a blind fish. Think aloud the violence. It's just the image that my mind made. And this ain't an image, this is just the way that I dress. But you wanna pick a silly little fight, alright then. Watch me turn up and rock a live show with nothing but a big fat white cloth with just the eye slit. Ghost, cause that's what I be. If any slight industry type did try it, I'm waiter. Individually minded, I won't change iron eye for the limelight. For my soul to be oh so lit. No, I'm too focused to be controlled and molded into a phony. Anyone that knows me knows I'm not here for the fame, cause I'd hate that. Paps in my face, out my way. Cause this is hip hop, not shit pop. I won't even pit stop in that lane. Now you must be crazy. Put your middle fingers up to that cheap yucky stuff and just scream, yo, your scene just ain't me. Cause this is hip hop, not shit pop. I won't even pit stop in that lane. Now you must be crazy. Put your middle fingers up to that cheap yucky stuff and just scream, yo, I piss on the mainstream. Cause this is hip hop, not shit pop. I won't even pit stop in that lane. Now you must be crazy. Put your middle fingers up to that cheap yucky stuff and just scream, yo, your scene just ain't me. Cause this is hip hop, not shit pop. I won't even pit stop in that lane. Now you must be crazy. Put your middle fingers up to that cheap yucky stuff and just scream, yo, I'm pissed on the main, on the main, on the main. Era ora, sì, piss on the mainstream. Non possiamo non essere d'accordo. Ora sì, peraltro è venuto a suonare per noi in quel del Forte questo autunno passato. Non is my puzzle. Everything buzz. I need to get that puzzle. Insieme a Serpa in Seno, un concerto. Boom, we're smothered in Johnson's chemical substance. Dropped in with love, it's nonsense. Then we joke with the back. Una sera di quelle che comunque. Di cui comunque riserviamo un piacevolissimo ricordo. cause we were weaned off the breast of disease. 29 minuti dopo la mezzanotte, non possiamo andare oltre, ce ne dispiace, non possiamo, credo, salutare chi ci ha chiamato questa sera perché non stava ascoltando la radio. Ce ne andiamo, vi abbiamo ricordato un po' tutto gli appuntamenti di questo venerdì e sabato. Venerdì alla strada, un tango per Radio Onda Rossa. E poi l'iniziativa sottoscrizione di Radio Onda Rossa, rilancio della campagna 30 per 1000 in quel di Centocelle, aperte cena più Ashan. Ladies Reg Band. Questi sono gli appuntamenti per il fine settimana. Ci risentiamo noi mercoledì prossimo. Non prima di avervi ricordato che vi lasciamo in compagnia del della compagna automatica Sonata e che le trasmissioni in diretta riprenderanno alle 8 di domani mattina. Con la lettera delle prime pagine dei giornali e rassegna stampa non seguiranno, non ci saranno i relazionali per domani mattina, forse qualche replica. Alle 13 il GR, lo spazio comunicazioni, probabilmente anche quello salterà, si riprende alle 14 con tutta scena cinema, attica blues oltre alla black music. La Schiena del Sole non andrà in onda, Mezzedes presenterà, sì, delle trasmissioni riguardanti il caso Cucchi, ve lo diciamo, ve lo anticipiamo già da stasera. Tabula Rasa domani non va in onda, si riprende alle 23 con i cuginetti di Apostesia. Bella Paizo, bella Fongis. Il nostro saluto, il nostro abbraccio va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, resti domiciliari, famigerati, centri di detenzione per migranti, ai noi. E tutti i decreti ingiuntivi che vi obbligano, e obbligano soprattutto chi fa le lotte, a restare. E i luoghi di residenza o di lavoro. Un sacco di roba fastidiosa di cui occorre assolutamente disfarci. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, state a sentire la radio perché ne stiamo preparando di belle. Daje. We'll be right back. our dreams. I'll share our dreams under a communist moon.